ma con quegli occhi sbarrati nel bel faccione rosso mi fece paura e rifiutai dicendo che un amico sarebbe passato a prendermi. Non mi sembrava una risposta offensiva. Il principe ne ricavò certo una diversa impressione, perché da quel momento non mi rivolse più la parola. Bisogna per l'appunto che vada a trovare la regina di Napoli, chissà com'è addolorata, disse la principessa di Parma, o così almeno mi parve che avesse detto. Le sue parole, infatti, mi erano arrivate confuse attraverso quelle più vicine, rivoltemi dal principe Fon, sottovoce, perché temeva evidentemente, parlando più forte, di essere sentito dal signor di Foix. Ma no, ribatté la duchessa, secondo me non lo è per niente. Per niente, siete sempre eccessiva, Oriane, intervenne il signor di Guermantes, riprendendo la sua funzione di scogliera che, opponendosi all'ondata, la costringe a lanciare più in alto il suo pennacchio di schiuma. Bazin sa meglio di me che dico la verità, si difese la duchessa. Ma è convinto di dover fare quel fiero cipiglio a causa della vostra presenza. Teme che io vi scandalizzi. Oh no, ve ne prego, esclamò la principessa di Parma, terrorizzata dall'idea che per colpa sua si alterassero in qualche modo quei deliziosi mercoledì della duchessa di Guermantes, quei frutti proibiti che persino la regina di Svezia non era stata ancora ammessa a gustare. Ma se proprio a lui che le aveva detto con banale compunzione: «Vedo che la regina è in lutto, per chi? È una perdita grave per vostra maestà?» Proprio a lui ha risposto: No, non è un lutto grave, è un lutto piccolo, piccolissimo. Si tratta di mia sorella. La verità è che sta d'incanto, Bazin lo sa benissimo. Quello stesso giorno ci ha invitato a una festa e mi ha regalato due perle. Vorrei che perdesse una sorella tutti i giorni. Non piange la morte di sua sorella, la ride sino alle lacrime. Probabilmente pensa, come Robert, che sic transit. Non so più che cosa, concluse la duchessa per modestia, pur sapendolo benissimo. In questo caso, d'altronde, Madame de Guermantes faceva solo dello spirito e del più falso, perché la regina di Napoli, come la duchessa d'Alençon, morta anche lei tragicamente, aveva un gran cuore e ha sinceramente pianto i suoi. Madame de Guermantes conosceva troppo bene le nobili sorelle bavaresi che erano sue cugine per ignorarlo. Vorrebbe non tornare più in Marocco, disse la principessa di Parma, afferrando una seconda volta quel nome, Robert, che Madame de Guermantes le aveva teso, affatto involontariamente, come una pertica. Conoscete il generale de Montsorfeuille, vero? Pochissimo, rispose la duchessa, che era intimamente legata a quell'ufficiale. La principessa spiegò quale fosse il desiderio di Saint-Lieu. E Dio mio, se lo vedessi, può anche capitare che lo incontri, ammise, per non aver l'aria di tirarsi indietro, Madame de Guermantes, i cui rapporti col generale de Montsorfeuille sembravano essersi improvvisamente rarefatti da quando si trattava di chiedergli qualcosa. Tanta vaghezza non parve tuttavia sufficiente al duca, il quale, interrompendo la moglie: Sapete bene che non lo vedrete, Oriane, disse, e poi gli avete già chiesto due favori senza essere accontentata. Mia moglie ha la mania della gentilezza, riprese in tono di crescente furore per costringere la principessa a ritirare la sua richiesta senza dubitare della cortesia della duchessa, ma attribuendo tutto al carattere di lui, fondamentalmente pizzoso. Robert potrebbe rivolgersi direttamente a Montsorfeuille, ma dato che non sa quel che vuole, lo fa chiedere da noi, sapendo che non c'è modo migliore per mandare tutto a monte. Oriana ha già chiesto troppe cose a Montsorfeuille. Un'altra sua richiesta adesso non farebbe che provocare un rifiuto. Ah, allora no, è meglio che la duchessa non faccia nulla, disse Madame de Parme. Proprio così, concluse il duca. Quel povero generale ha subito una nuova sconfitta alle elezioni, disse la principessa per cambiare discorso. Oh, non è grave, è solo la settima volta, commentò il duca, il quale, dopo la sua forzata rinuncia alla politica, assisteva con un certo gusto agli insuccessi elettorali degli altri. Si è consolato facendo fare un altro figlio a sua moglie. Come? La povera Madame de Montserfelli è di nuovo incinta, esclamò la principessa. Ma è naturale, osservò la duchessa. È l'unica circoscrizione in cui il nostro sfortunato generale non abbia mai fatto fiasco. Non avrei più smesso, in seguito, di essere regolarmente invitato, magari solo con pochi intimi, a quei pasti di cui, un tempo, mi ero figurato i commensali come altrettanti apostoli della Sainte-Chapelle. Ci si riuniva là, in effetti, come i primi cristiani, non semplicemente per spartirsi un nutrimento materiale, d'altronde squisito, ma in una sorta di cena sociale. E così, nel giro di pochi pranzi, assimilai la conoscenza di tutti gli amici dei miei ospiti, amici cui essi mi presentavano con una sfumatura di benevolenza così marcata, come una persona per la quale avessero nutrito da sempre una paterna predilezione, che ciascuno di loro avrebbe creduto di fare uno sgarbo al duca e alla duchessa se avesse dato un ballo senza mettermi nella lista degli invitati. E intanto, sorseggiando dell'ichem proveniente dalle cantine dei Germant, assaporavo qualche ortolano cucinato secondo una delle numerose ricette elaborate e prudentemente modificate dal duca. Tuttavia, per chi si era già assiso più di una volta al mistico banchetto, la manducazione di quei volatili non era indispensabile. Alcuni vecchi amici dei Germant venivano a trovarli dopo pranzo. A modi stuzzicadenti, avrebbe detto Madame Swann, senza preavviso, e bevevano d'inverno una tazza di tiglio alle luci del grande salotto, d'estate un bicchiere d'aranciata nel buio del piccolo giardino rettangolare. Non si era mai visto dai Germant durante quelle serate in giardino altro che l'aranciata. Essa aveva qualcosa di rituale. Offrire rinfreschi supplementari sarebbe stato uno snaturare la tradizione, così come un grande ricevimento nel Faubourg Saint-Germain non è più un ricevimento se comprende anche una commedia o della musica. Si deve sempre presumere, ci fossero pure 500 persone, che uno sia andato semplicemente a fare una visita, per esempio alla principessa di Germain. Destò ammirazione la mia influenza perché riuscii a fare aggiungere all'aranciata una caraffa contenente succo di ciliegie cotte o di pere cotte. Presi in antipatia per questo il principe di Agrigento, uguale a tutta quella gente che, priva di immaginazione ma non di avarizia, si meraviglia di ciò che state bevendo e vi chiede il permesso d'assaggiarlo. Finiva che ogni volta il principe di Agrigento, diminuendo la mia razione, mi rovinava il piacere. I succhi di frutta, infatti, non sono mai in quantità sufficiente a dissetare. Niente stanca meno di questa trasposizione in sapore del colore di un frutto, che sembra, cuocendo, regredire verso la stagione dei fiori, purpureo come un frutteto in primavera, o in colore fresco come lo zefiro sotto gli alberi da frutto, il succo si lascia respirare e scrutare goccia a goccia, e il signor d'Agrigento mi impediva regolarmente di saziarmene. Malgrado l'aggiunta delle composte, la tradizionale aranciata resisté come il tiglio. La comunione sociale non mancava, anche sotto queste specie più modeste, di essere celebrata. In questo, gli amici dei Germant erano senza dubbio rimasti, così come li avevo inizialmente immaginati, più diversi di quanto il loro aspetto deludente non m'avrebbe indotto a credere. Parecchi vegliardi venivano a ricevere, in casa della duchessa, assieme all'invariabile bevanda, un'accoglienza spesso tutt'altro che cortese. Ora, non potevano farlo per snobismo, essendo essi stessi d'un rango cui nessun altro risultava superiore, né per amore del lusso. Forse l'amavano, ma avrebbero potuto sperimentarne, in condizioni sociali meno elevate, una forma incomparabile, giacché in quelle stesse sere l'affascinante consorte di un ricchissimo finanziere avrebbe dato qualsiasi cosa pur di averli a certe splendide cacce che organizzava per un paio di giorni in onore del re di Spagna. Eppure avevano rifiutato ed erano venuti a vedere se, per caso, Madame de Guermantes fosse in casa. Non erano nemmeno certi di trovare lì opinioni assolutamente conformi alle loro o sentimenti particolarmente calorosi. Madame de Guermantes lanciava di tanto in tanto sull'affare Dreyfus, sulla Repubblica, sulle leggi antireligiose o addirittura, a bassa voce, su loro stessi, sulle loro infermità, sulla tediosità delle loro conversazioni, riflessioni che dovevano fingere di non sentire. Evidentemente, se restavano così fedeli a quest'abitudine, era per raffinata educazione di buon gustai mondani, per chiara cognizione della pietanza sociale di prima e perfetta qualità, dal gusto familiare, sapido e rassicurante, senza miscugli, non adulterata, di cui conoscevano l'origine e la storia altrettanto bene quanto colei che gliela serviva, rimasti più nobili in ciò di quanto essi stessi non sospettassero. Ora, fra questi visitatori ai quali fui presentato dopo pranzo, il caso volle che ci fosse quel generale di Montserfeil nominato dalla principessa di Parma e che Madame de Guermantes, del cui salotto egli era un abitué, non pensava sarebbe venuto quella sera. Sentendo il mio nome, il generale si inchinò davanti a me come se fossi il presidente del Consiglio Superiore della Guerra. Avevo supposto che solo un'innata riluttanza a far favori, nella quale il duca, come per lo spirito se non per l'amore, era il complice di sua moglie, avesse spinto la duchessa a rifiutare o quasi di raccomandare il nipote al signor di Montserfeil. E scorgevo, in questo, un'indifferenza tanto più colpevole in quanto, da qualche parola sfuggita alla principessa di Parma, mi era parso di capire che l'incarico di Robert fosse pericoloso e che sarebbe stato prudente farglielo cambiare. Ma rimasi addirittura disgustato dall'autentica perfidia con cui, quando la principessa di Parma propose timidamente di parlarne lei stessa di propria iniziativa al generale, la duchessa fece di tutto per dissuaderne l'altezza. «Ma signora», esclamò, «Montserfeil non ha nessun credito o potere di sorta con il nuovo governo. Sarebbe un buco nell'acqua». «Non vorrei che ci sentisse», mormorò la principessa, invitando la duchessa a parlare più piano. «Vostra Altezza non abbia timore, è sordo come una campana», replicò la duchessa senza smorzare il tono di voce, tanto che il generale la sentì perfettamente. «Sapete, ho l'impressione che Saint-Lieu non sia in un posto molto sicuro», riprese la principessa. «Che volete?» ribatté la duchessa. «È nella stessa situazione di tutti gli altri, con la differenza che è stato lui a volerci andare. E poi no, non c'è pericolo, altrimenti potete ben credere che me ne occuperei. Ne avrei parlato a Saint-Joseph durante il pranzo e molto più influente è una tale tempra di lavoratore. Vedete, se n'è già andato e con lui sarebbe meno imbarazzante che con Montserfeil, il quale ha tre figli proprio laggiù in Marocco e non ha voluto chiederne il trasferimento. Potrebbe sollevare questa obiezione. Poiché Vostra Altezza ci tiene tanto, ne parlerò a Saint-Joseph, se lo vedrò, oppure a Beautreil. Ma se non dovessi vederli, non state troppo a compiangere Robert. L'altro giorno ci hanno spiegato dove si trova. Credo che non ci sia posto migliore. Che splendidi fiori! Non ne ho mai visti di simili. Non ci siete che voi, Oriane, per avere di queste meraviglie, disse la principessa di Parma, la quale, nel timore che il generale de Montsorfeil avesse sentito la duchessa, cercava di cambiare discorso.